5E. Ascolta e trasforma. Quel vaso è rotto. Quei vasi sono rotti. Quel signore è elegante. Quei signori sono eleganti. Quel libro è antico. Quei libri sono antichi. Quel bambino è vivace. Quei bambini sono vivaci. È un bel vaso. Sono dei bei vasi. È un bel film. Sono dei bei film. È un bel libro. Sono dei bei libri. È un bel bambino. Sono dei bei bambini.